La penetrazione di bambini ormai che hanno capacità di navigare l'internet è circa del 90%, cioè i ragazzi in fascia diciamo 7-15 anni ormai sono super, super capaci di navigare internet e la stessa capacità ce l'hanno anche sulle nuove tecnologie, tipo accedere a portali sul telefonino piuttosto che giocare con i nostri giochi sulla DS, piuttosto che console game di vario tipo e forma. E sono molto molto bravi. Quello che noi cerchiamo di fare è che rassicuriamo i genitori, perché nel momento in cui un bambino o un ragazzo entra a contatto con il mondo Disney è in qualche modo protetto, nel senso che sul sito di Disney.it, comunque nel momento in cui si esce dal nostro sito, si avverte il genitore o il bambino stesso dicendo guarda che stai uscendo dal mondo Disney. Nei nostri portali, nel momento in cui sono gestiti sui telefonini degli operatori con cui abbiamo accordi, il mondo a volte completamente protetto, per cui non c'è possibilità di accedere a altri contenuti. E sicuramente quello che vorremmo fare con il rilancio del nuovo sito è dare la possibilità di personalizzare la loro esperienza su internet e non viverla più quindi soltanto in una maniera passiva. Per cui quello che succederà con il nuovo sito di Disney.it sarà la creazione di un'area dove i ragazzi potranno creare il loro canale televisivo online, dove potranno vedere spezzoni dei loro programmi favoriti, piuttosto che potranno creare anche aree dove ogni volta che accedono riceveranno le ultime informazioni sui programmi di Hannah Montana, Kim Possible, piuttosto che High School Musical, e il gruppo di editori che lavorerà sulla creazione del sito in qualche modo pianificherà e programmerà contenuti come giochi interattivi piuttosto che domande di varia forma e genere, in modo che quando il ragazzo rientra nella sua area personalizzata possa intrattenersi giocando con contenuti appropriati.